Franco. Franco. Ora, ora, ora, eccoci. Ok. Stavo. Chi è? Boh. A 4.33 cento. Aspetta che lo metto. Basso basso. Io lo sento proprio. Proprio basso, basso, basso. L'hai sentito? No. Dove lo correm? Qualche ristorante. A 4.33? Oh, non sono riuscito a dare la pastiglia al cane. Porca miseria l'altra. Come mai? Perché è nervoso, Adesso è. C'è quella là in calore, sempre col naso attaccato lì sotto. È un problema quello, è un problema. Io quando ieri mattina ho tolto una zecca a Wolf. Sì, me l'hai detto. No, ma lui adesso è testardo, no, perché sai, è un po' in competizione anche col figlio, quindi ridusso, cioè lui abbassa la testa, sì, non, però stringe i denti della serie, prova a premere la bocca, se girisci e ci vuole un click. No, vedo, ci vuole un click. Fate delicato il ragazzino. Fate delicato il ragazzino. Sto guardando questa Long Wild, ma a me va che si vesterì, tutta questa tabella 30 metri, 1,8, 1,7, 1,4, 1,7, 1,2. Sì, ma sul radio o sei girato? No, sono girato, sto guardando il tablet. Sto guardando il tablet un attimino. Ah, è perché se mi è spaccato il timpano. Sì, ero dai, a 70 cm, 70-80 cm dal microfono. Infatti. Va bene. No, non so come dai, gli ho dato anche, porca miseria, anche con la siringa non me l'ha sputtata. Non so se fa qualche cosa, se qualche giorno non la prende, boh. Ma con la mortadella è nuda, non ne mangia. Nuda, mortadella, salame, viussel, di tutto di più. E vuol dire che va a sapere tutti. Eh sì, quello sì, ho capito. Però quelle non so se le posso sospendere, capito? Oh, sono all'upurinolo mio, non è che sia chissà cosa, però. Prova magari a mettertela vicino in radio, ma se viene lo accarezzi, gli giri la mano, gliela dai a tradimento. Ma secondo te è una settimana senza entrare in casa? Quando sono apprettati non venuta di là, gli puoi fare di tutto, non cascano. Veda lui, cosa devo su va? Se si peggiora, peggio per lui, io la mia buona volontà ce l'ho messa. No. Sì, ma infatti è quello che dico io. Anche io il fornese stesso non prende medicina, non prende nulla. Io ho detto, la giudizio dico sempre, non pigli medicina, ti vuoi un fosso e non viene problemi. La buona volontà ce la metti, però quando sono ridotti. Vabbè, peggio baetto, non so cosa fare, le dita non me le gioco per lui, quindi. No, ma assolutamente, perché mai tu ti giochi il dito, ma poi lui si gioca al collo. Tocca consumare una cartuccia. Esatto. A te non ti conviene al momento, però lui non gli conviene per sempre. Poi mi dispiacerà, però sai com'è, no? Cosati? Ho detto, magari poi mi dispiacerà, però sai com'è, come funziona. Purtroppo è così. Poi soprattutto noi, vabbè, la ragioniamo in modo umano. Loro non la ragionano così, loro sono... loro hanno il loro carattere, bisogna, anzi la loro indole, non il loro carattere. Noi cerchiamo di farli adeguare a noi, invece siamo anche noi a volte ci dobbiamo adeguare a loro, però non mi buone manco un sigà, chi ti gioco di loro non lo capiscono quello che gli stanno la pastiglia per il loro bene. Purtroppo cosa vuoi fare? Quando la vuole se la mangio, dove tic. Ho provato con salame adesso, ho provato con la salsiccia, ho provato con il wurstel, ho provato con l'acqua schiacciata proprio infilaglia con la siringa, oltre non fa. E cosa vuoi dire? Ma altri cani c'è dentro? Solo a lui? Sono tutti e tre fuori. Ti sto dicendo che è una settimana senza entrare, è questo. Ah, sta dormendo fuori? Secondo te? Io adesso dimagrisce pure. Eh sì. E vabbè, se vuoi mangiare la roba da mangiare ce l'ha. Anzi, ti do di più, oggi ho messo solo crocchette, quindi della serie che se hai fame te la mangi. Se no te la mangi. Sì, no, ma intanto non mangiano, so affrettati, non mangiano. No, ne raffutti nuda, come i gatti. Come gatto, io ho un gatto maschio che mi deve essere sente a femmine, a cose. Torra, magna e si nanda, ma va a fiaggo di biscio, va, infatti si inizia di pura, vai di Nalgarira. Non si può toccare. Oh. Sì, perché poi i gatti maschi si pisciano tra di loro, capito? Il gatto maschio si piscia e va tutti a vara recce musicata, ma poco di cosa. Ma. No, lasciamo verde, va. Quando ne ha voglia se la prende. Se avessi avuto i guanti di quelli da macellaio, quelli. Ma l'avrebbe stato lo stesso, neanche, non, purtroppo non entra dentro, neanche chiamandolo alle buone, nulla. Nulla, non si stacca, non si. Questa volta è peggio che mai, Addirittura ha anche gli occhi rossi e la bocca rossa, tutto rosso, dentro, fuori, dappertutto. Perché quella cagna vorrebbe sterilizzata. No, quella cagna ormai non ce la fa più neanche a. Anche se lui vuole non ce la fa, perché ha le gambe di dietro che sono molli, quindi appena lui salta su, lei lo morsica perché la fa cadere, le fa male. Vabbè, da Savara ne arrangia. No, il fatto è che lui deve prendere quella medicina e speriamo non gli faccia niente, veramente. Però mandare un messaggio al veterinario e diglielo, dice guarda che ho questa condizione a casa, che ho il cane che è imporrazzato e non riesco a dargli la medicina. No, vabbè, domani lo chiamo, glielo dico. Ma credo che non faccia niente per. Se poi si prolunga, perché questa qua deve prendere la vita, Sì. Quanto viene quella pastiglia? Sì? No, non costa tanto. Ne ho preso 6 scatole, ce ne sono parecchie. Due confezioni, credo da 2, 4, 6, 8, credo da 20 pastiglie. Ne ho preso 6 scatole, 11 euro. No. Quindi li fanno magari anche con 11 euro fai anche 4 mesi così sono circa 20 pastiglie, no, ma io ne ho due al giorno. Due, una alla mattina o una alla sera? No, due assieme. Ok sì. È un casino. E ti volevo dire, ma devo sempre mandare il messaggio al veterinario, quel numero che mi ha dato tu. Giosuè, sì, Giosuè, è bravo. Fatemi adesso, domani ti mando un messaggio, perché vediamo, l'ultima volta cosa ho scritto, cos'era, aspetta un attimino, cos'è questa roba, capi? Tolgo? Vabbè. Aspetta, vado un attimo a cutti a capicolino, ti non sverà vostro bio. Vai che tanto cerco a lui. Eccolo qua. Dammi un secondo che sto scrivendo Il messaggio arrivo subito. Vediamo un po', Franco, ci sei? Ho fatto una lista di quello che gli ho fatto e che non sono riuscito. Adesso magari mi rispondo domani mattina. Vediamo, comunque, gli ho scritto a vedere se faceva qualche cosa o meno, di farmi sapere. Sì, magari ti risponde. Magari ti risponde. Iuia, mi sta scendendo un pochino la palpebra, mi sta calando un pochino la palpebra, sono stanco oggi. Ma non stanco fisico, sono proprio stanco di mente. Sì, anche io, non è che sono al 100%, oggi sono un po' così. Domani sarà peggio, però. Però alla fine della settimana lo fa. E poi domani, venerdì e sabato, non hai problemi di sveglia, anche se no a dormire, ma sono stanco perché mi sto svegliando presto la mattina, mi sto svegliando alle 3:30, sono in cucina, mi corico alle 11 e alle 3 sono sveglio, luci a lampioni e niente, mi accendo le radio e poi me ne vado in cucina, caffè, alle 5:30 un altro caffè, poi film, telegiornale, poi prendo e vado al lavoro, ma poi alle 5 ne risento, la sera alle 5 mi si bigiano i ranchi, quindi mi devo sedere una decina di minuti e poi riprendo. Vabbè che poi io alle 4:30 già finisco, però come arrivo a casa mi devo sedere un po', mi rilasso un po' col telefono, o mi accendo le radio, qua mi faccio un po' di ascolto, 40 metri, e poi mi metto a fare qualcosa fuori. Però io sono già da maggio dell'anno scorso che sto dormendo 4 ore a notte, 5 ore a notte, poi è finito, finisce ormai l'abitudine, ormai almeno alle 5:30, no? È un orario già un po' più umano, ma alle 3, avanti di notte erano le 2:15, sono stato nel letto 20 minuti, alle 3, 20 minuti, mezz'ora, alle 3:10 ero in cucina, perché mi viene anche il... rimango a letto e mi viene il... mi rimango svogliato, allora mi devo alzare, mi alzo e mi lavo la faccia, pum, perfetto, andà a fa. So cosa fare 3 del mattino, niente, la cacca fai la cacca, cosa devi fare 3 del mattino. E anche quello, no, io vabbè, sono sveglio lo stesso quando sono alla sveglia, però diciamo la verità che avrei voluto rimanermene un pochino di più, è che mi alzo con mal di schiena tutto quanto, tutto acciaccato. Io proprio mi sveglio, è proprio tassativo, non c'è cosa, non ho vetturia, poi dopo che mi prendo il caffè, dice che ricuricati, da sapigli. Se l'altra mattina te l'ho detto che ero in garage facendomi l'antenna alle 3:30. Sì, la stessa cosa mia a quell'ora. Oh yeah, da sapigli. Sì, eppure a dire che non faccio niente, sono sempre in vendita, sempre i carpi, i tabellini, i besi in mano, sempre in vendita, però non ci riesco. E va bene così, vuol dire che è un periodo che mi bastano quelle 4-5 ore di sonno, 4 ore, perché poi io torno la prima sonnata. A me per esempio, se io adesso tra un po' mi curico, A me a mezzanotte non mi sveglia neanche, boh, non lo so, se mi prendi a calcio non mi svegli. Però poi alle 3 dico vai, vamos a terra. Vabbè, va, vuol dire che bastano quelle ore, eh? Cioè no, già avresti continuato. Oh, sabato e domenica, dopo pranzo è tassativo, un'oretta me la devo fare. Ia, che lo dici? Sì, quella lì è tassativa. E dopo che pranzo prendo e mi viene questo incantesimo strano e mi devo coricare. Sì, perché poi non capisco, mi devo coricare. Ma mi basta un'ora e mezzo, là. Il giusto il tempo di riprendermi e poi mi alzo. Come fanno quelli che si coricano? C'è gente che si corica alle 9 di notte e si sveglia l'indomani alle 9. Ci sono degli amici che il sabato che non lavorano, non il sabato. Si coricano il venerdì notte, magari fanno serata fino alle 11 e si alzano il sabato mattina a luna. Sì, ne ho un esempio lampante qua a fianco a me. Sì. Sì, lui dorme. Ma chi, tuo figlio? È grande. No, non io ho mai dormito tanto. No, perché poi si dice anche che chi dorme non piglia pesce. E ora non ci va a pescare. C'è la pescheria. E allora, c'è babbo che compra i pesci. Vabbè. Mio fratello era così. Mio fratello si coricava, rientrava a mezzanotte, l'una, e il sabato, tutta la settimana lavorava, poi il venerdì notte, il venerdì sera usciva e si ritirava all'una, alle due di notte. E il sabato si svegliava anche alle 4 di sera. Boh, mamma entrava a controllare se era vivo. Lo fa, no, anche io molte volte, da ragazzo qua, qualche volta già ho fatto una lunga tirata, però sono stato anche, soprattutto alla festa di essere produttore, sarà alla festa grande, 3 giorni senza dormire. E a voglia, e io quando sono in stagione, quando dormo, forse per quello io ormai sono abituato, non dormo più per quella roba lì. Perché faccio 18-20 ore, arrivo a casa, mi doccia, ti corichi e poi magari alle 10 devi di nuovo uscire, alle 10 del mattino, quindi quando dormi 4 ore e poi di nuovo altre 20 ore, poi altre 4 ore, 5 ore, poi sdeci d'orra, e quando devi guidare, quando devi, forse anche per quello io non riesco più a dormire quelle 7-8 ore di fila, forse per quello. Già mi sarebbe piaciuto, però mi bastano quelle ore lì. Oh, quando ero ragazzo prendevo anche io, uscivo a lavorare il venerdì o il sabato, lavoravo anche il sabato magari. Poi io bigliavo doccia, uscivo e rientravo alle 5-6 del mattino, però massimo alle 11 lo sveglio, alle 11-11 e mezzo, dai. E poi mi ricoricavo un po' pranzo, ma quello è sempre quel paio d'ore. E vabbè, no, alla festa grande sono stati after anche di 5 giorni. No, noi addirittura scendevamo da qua, dalla Bertellina. Poi facevamo tutta la camminata a piedi, stavamo fino alle 9 mattina lì, poi andavamo al mare, poi a pranzare, poi di nuovo al mare, rimanevamo in spiaggia lì, buttati come delle sardine, però sempre attivi, là. Poi nuovamente in festa la sera, poi la sabbiglia. E birretta era grande. Sì, qualcosa è uscita. Qualcosa del genere già c'è uscita, là. Non ci possiamo lamentare. Eia. Oh, beh, fratello, mi sembra che io ti saluto, perché sta calando la palpebra. Eia, vabbè, dai, capirà. ci sentiamo domani, tanto anche io adesso mi preparo la roba e tanto quel miserabile non so, ha preso la pastiglia, quindi questo non mi ha dato, non mi ha dato risposta, e quindi, quindi niente, se devo morire che muoia, lo dove ti dico? Già non muore, non ti preoccupare, che già non muore. E dove va? Autoimmune a tutto. Lui adesso ha l'immunità a tutto. Purtroppo è così. Purtroppo è così, non ci possiamo fare niente, dai. Dobbiamo tenerceli per come sono. Dobbiamo tenerceli per come sono. Va bene, ti dai. Io domani sono a casa. Domani sera come rientro sono a casa e spero che di finire per le 4, finire per le 3 e mezzo 4, dai, mi faccio il continuato, non pranzo e così me ne vado un'ora prima. E così se riesco mi do una passata di cespugliatore, non è alta l'erba, è bassa, però c'è già un po' di gramigna, c'è già un po' di gramigna, quindi quella poca che c'è la può tagliare con rasaerba e del cespugliatore. Con raccoglitore la svuoto e la svuoto nelle buste all'ampazzira, che se no no che è un problema, si secca. Va bene, dai Tino, buonanotte a te, correa familiare, buonanotte, dai, buona giornata per domani e buonanotte anche a chi è in ascolto qua su 27105 canale 12 in FM. Correttivo definitivo, buonanotte Tino. Allora, va bene, dai, anche io. Ciao, ciao, buonanotte, alle prossimine. Buonanotte anche agli eventi dello Scoltoni. Ciao.